Accattun. Senti quel che dice il profeta. Oggi devi venire l'anello. Domani la catenina. Fra 7 giorni pure l'orologio. E fra 77 giorni non ci avrai nemmeno oggi per piangere.